stiamo lavorando da mesi, gli investimenti sono stati notevoli, parliamo di circa 130 più 29, quindi circa 160 milioni di euro, ma ne servirebbero ancora molti altri. E alcune realtà, come sono state l'anno precedente, la zona di Sesto, l'anno scorso, il dramma è stato significativo come è noto, nel Rio Ferreggiano, una serie di interventi sono già stati programmati, altri sono in corso d'opera sul Bisagno. Stiamo lavorando naturalmente anche sul grande tema delle manutenzioni. Poi naturalmente in questi giorni la questione delle previsioni sono sempre al centro. Voglio assolutamente rassicurare, nel contempo naturalmente manteniamo saldamente i piedi per terra e continuiamo costantemente ad essere sul pezzo. Tendo anche a dire, ma capisco, giustifico, che in virtù di quello che è accaduto si è creato molto anche preoccupazione. Pensiamo anche a una cittadinanza, come dire, che è la terza età, la quarta età, quindi genera ulteriore preoccupazione, quindi qualche volta qualcheduno, non mi riferisco certo a voi, ecco, rasenta anche un po' il terrorismo, però tuttavia noi cerchiamo con grande realismo di stare sul pezzo.